chiamate Baghdad 0791. Non è il titolo di una trasmissione di successo, ma l'invito che l'esercito USA rivolge da qualche giorno agli iracheni, dopo aver installato 5 linee telefoniche, le hanno definite hotlines antiguerriglia, che non sono a pagamento, ma anzi possono fruttare un bel mucchietto di dollari a quanti forniranno indicazioni utili all'arresto di insorti o di persone comunque sospette. Il servizio attivo 24 ore su 24 ed è coordinato niente meno che da un generale della prima divisione di cavalleria, il quale, fornendo dei canali delle televisioni arabe, le stesse alle quali è stato impedito l'accesso a Fallujah, ha detto agli iracheni: se vedete questi terribili insorti pronti a passare all'azione, acchiappate il telefono e chiamatemi e io reagirò prontamente, perché noi possiamo decidere di combattere assieme e voi potete aiutarmi in questa battaglia, in segreto. La scelta di campo è semplice, potete scegliere il campo degli insorti, cioè la morte, oppure quello del governo legittimo, cioè la vita. Pare comunque che l'iniziativa non abbia sortito gli effetti sperati da questo nuovo grande comunicatore. Ai centralini arrivano, è vero, una trentina di telefonate ogni giorno, ma nessuna ha portato risultati concreti e c'è anche, si dice, chi le usa per divertirsi a modo suo. Franco Chiavegatti, di Reporter Associati, per Amisnet Radio.